con Mattia Della Puppa di Adler Entertainment per parlare della distribuzione del film Don't Worry di Gus Van Sant, uscito in sala mercoledì 29 agosto. Mattia, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti. Partiamo da qualche indicazione di trama? Sì, il film appunto si chiama Don't Worry, è una storia vera, racconta la storia tratta da un libro che ha pubblicato Ragazzanti in Italia di John Callan, che è un vignettista satirico statunitense morto qualche anno fa e che racconta appunto la sua autobiografia, la sua vita, a partire dal suo passato di alcolista e dall'incidente, un incidente che ha avuto in auto e che l'ha costretto su una sedia a rotelle. Poi quell'incidente in realtà si rivelerà un momento fondamentale della sua vita, perché da quel momento di grandissima disperazione e di grandissima caduta riuscirà poi a rialzarsi e a trovare la sua via nella vita, il suo successo professionale, personale e la sua realizzazione tramite appunto il disegno e le linee. Questa è in brevissimo la Sì. trama. Mattia, gli elementi più convincenti secondo te di questo lavoro di Van Sant? Guarda, ce ne sono un po' di elementi convincenti di questo lavoro. Prima di tutto è la performance degli attori. È facile dire Joaquin Phoenix perché Joaquin Phoenix è bravo, è bravissimo ed è bravissimissimo in questo film. Addirittura la distribuzione statunitense, che è stata fatta a luglio, il film è uscito a luglio negli Stati Uniti, inizialmente doveva essere a maggio ed è stata poi spostata a luglio per avvicinarlo agli Oscar, perché la sua performance è una performance di quelle memorabili e che quindi dovrebbe, almeno nelle intenzioni, portarlo almeno a una nomination. L'altra performance di attore straordinaria e anche più inaspettata è quella di Jonah Hill, che noi siamo abituati a vedere principalmente in veste comica. Qui fa una parte drammatica che è di un'intensità spaventosa e lui è un attore veramente meraviglioso, veramente, veramente meraviglioso. Quindi questi sono i primi aspetti, che sono quelli delle performance. La storia è una storia assolutamente positiva e che comunque riporta Gus Van Sant sui binari delle cose che ha fatto meglio nella sua carriera. Probabilmente ha avuto delle un po' di scivolate ultimamente. Questo è un film di Gus Van Sant vecchia maniera, e quindi questo è un altro elemento per il quale vi consiglio di andare a vedere il film. Mattia, dove lo avete intercettato e che tipo di uscita è? Noi abbiamo preso il film sulla sceneggiatura a Cannes di 2 anni fa. L'abbiamo preso lì, poi l'abbiamo visto in realtà prima che il film andasse a Berlino, perché il film ha avuto un percorso di festival che continua ad avere, ha fatto Sundance, Berlino e molti altri film. L'uscita del film è un'uscita del film in 110 copie e che quindi garantisce la distribuzione su tutto il territorio nazionale in maniera sana e pulita, e questo è. Ti dico solo una piccolissima curiosità sul film, giusto Sì. per un piccolo insight, anche se in realtà non è un vero e proprio insight perché la notizia è ovviamente di pubblico dominio. Il film era stato, era 20 anni che Gus Van Sant voleva raccontare questa storia e opzionò i diritti del libro circa, appunto, se non ricordo male, 20 anni fa. E inizialmente il ruolo di questo, il ruolo di protagonista era di Robin Williams. E quindi, quando poi non sono mai riusciti a far partire la produzione del film, quando poi è stato trovato appunto. Il progetto è stato ripreso in mano da Gus Van Sant, la scelta naturale è caduta su Joaquin Phoenix, e quindi questo un po' ci ricorda, dato che non ricordo male, l'anniversario della morte di Robin Williams è stato abbastanza recentemente, quindi questo volevo semplicemente dirlo così, una piccola curiosità. Un'ultima curiosità è l'accoglienza estera. Guarda, il film è stato accolto molto bene dappertutto, veramente molto bene dappertutto. È un film che ha oltre l'80% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, è stato accolto bene dappertutto e tutti hanno lodato principalmente la forza della storia e la performance degli attori. E ovviamente quello che ti dicevo prima, il fatto che Gus Van Sant è tornato a fare Gus Van Sant, quindi a raccontare quel tipo di storie lì, che sono quelle, è facile dire Milk, però quel tipo di storie umane, personali, raccontate senza pietismo, senza stravolgimenti particolari dal punto di vista narrativo, e comunque in ogni caso narrativo strutturale di regia, e che comunque sono quelle cose che lui sa fare bene. Bene, allora ricordiamo Don't Worry, film di Gus Van Sant, in sala da mercoledì 29 agosto. Un saluto e un ringraziamento a Mattia Della Puppa di Adler Entertainment che lo distribuisce. Mattia, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A tutti, ciao. Ok, senti, e per il link per riuscire a vederlo, chi contatto? Sì, prova a scrivere a Giulia Martini. Ok, va bene. A presto, ciao Mattia. Grazie, ciao ciao.